sempre esidente, sempre presente, che ci accompagnerà. Posso raccontarvi l'ultima che ho raccontato ieri a Napoli con grande successo? Sì, allora, c'è un aereo. Ma vuoi che io ti ospiti qui senza una barzelletta? Allora, no, ovviamente. Allora, c'è un aereo che attraversa l'Atlantico, sull'aereo ci sono Obama, Putin, Berlusconi, il Papa e un assistente del Papa. L'aereo si guasta, chiamano i soccorsi, ma devono buttarsi col paracadute. I piloti si accorgono di avere un paracadute in meno rispetto a quelli che sono sull'aereo. Indossano i loro due paracaduti, poi vanno di là e gli dici ce n'è uno in meno. Obama prende il primo e dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Putin afferra il secondo e dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Berlusconi dice questo spetta a me perché sono il politico più intelligente d'Europa. Il Papa dice all'assistente sì, lo so che vuoi darlo a me, ma non darlo a me. Perché tu sei giovane, mettilo tu. No, dice Santità, ma guardi che sono rimasti due paracaduti. E come mai? Perché l'uomo politico più intelligente d'Europa si è buttato col mio zainetto. È proprio nuova. Allora, c'è D'Alema che incontra... Berlusconi, me lo poteva dire! Che incontra Bertinotti. Bertinotti lo guarda e gli dice, ma sai Massimo che hai una brutta faccia? Cosa ti è successo? Ah, dice, guarda, non... ma che è successo? Sei proprio triste, eh sì, che è successo? È morto Berlusconi, ma no, sì, oh che peccato, sì, cioè, tutto sommato era ancora giovane, era anche abbastanza simpatico, sì, l'ho detto anche in televisione, ma come è successo? Dice, sei andata a fuoco la sede di Forza Italia, davvero, come è potuto essere? Dice... Un nostro compagno passava di lì e ha buttato un cerino, sai, c'era un cerino, un incendio. E un altro compagno era passato prima, aveva lasciato una macchina, un guasto, un po' di benzina, è andato tutto a fuoco. Perbacco, Berlusconi, e Berlusconi era lì. Che brutta morte, carbonizzato. Dice, no, no, era su all'ultimo piano. Dice, ah, e non è morto bruciato? No, dice, sai che lui si è buttato. Ah, al suolo, sfracellato. Dice, no, c'erano i pompieri, sai, con quei teloni elastici americani. E allora dice, è andato giù nel telone, proprio nel mezzo, rimbalzando su, è andato su dall'altra parte. Sai che dall'altra parte della piazza c'è l'ambasciata turca, sai, quella che ha sempre fuori con la bandiera, con quell'asta acuminata. Ah, che brutta morte, dice, ha imparato la turca. No, no, è andato giù, è arrivato sull'asta, ha fatto leva sull'asta, e ha rimbalzato su, e poi giù, dice, ha mancato il telone. No, l'ha preso, proprio nel mezzo. Dice, poi è andato su, è andato di lì. Sai che ci sono quelle case popolari che sono le ultime nel centro di Roma? Dice, morto povero. No, cosa hai capito? Dice, è andato giù, lì stendono i panni, è andato dove sei sulle corde che stendono i panni, ha fatto leva, ha fatto elastico, e poi su, è andato su, poi dopo è venuto giù, dice, disassato. No, l'ha preso ancora nel centro, e allora è andato su, è andato in alto, poi dopo è andato giù, è finito sulle linee dell'alta tensione. Mamma mia, fulminato, no, ha fatto leva anche lì, è andato giù, è andato su, è andato giù, erano andati via i pompieri, no, erano lì, e allora ha preso proprio nel centro, è andato su, e allora abbiamo dovuto abbatterlo. Diffidate da coloro che non sanno ridere.